mai passati, amori fuggitivi, amori che passarono lasciando nel cuore palpiti emotivi, così come le spume che porta l'ampio fiume. Scompaiono le illusioni subito inchiottite dal gran turbinio. Spume che andate già, delle rose viaggianti, fuggite in danzanti piccoli rametti ornando il paesaggio. Mai più ritornerò quelle spume viaggianti, uguali alle illusioni che soltanto danno gioie passeggere. Specchi tremolanti di acque fuggitive vanno riflettendo amori e ricordi cari che lascia la vita. Si intrecciano in corolle di bianchi fior di arancio come rossi diademi tra punti di fiori freschi e sempre vivi. Mai più ritornerò alle spume viaggianti, uguali alle illusioni che soltanto danno gioie passeggere.